più che altro, come dici tu, la mia zona, volevo con l'ipotesi, diciamo, di metterla sul tetto. È, diciamo, un po' più compatta, potrei lavorare con un paio di metri meno di canna. Sicuramente togliendo un elemento è più stabile come antenna, piuttosto di questa che è 8 metri. Beh sì, sicuramente sì, essendo più corta dovrebbe avere meno sollecitazioni, dovrebbe subire, per cui dovrebbe andare bene ugualmente. No, ripeto, come antenna, anche se quella è intorno ai 5,50 più o meno, una mezz'onda, e l'altra invece è 7 metri, circa, sì, 90, 95, una cosa del genere, indubbiamente la differenza c'è, però ripeto, come resa in città non si nota nemmeno, anzi devo dire che in certi posti magari arriva meglio anche la mezz'onda. Non dovrebbe essere così, però su Casestrano succede anche quello. Vai, tra. Sì, ti ricordi l'altra sera c'era Luca, come si chiama? Luca Flipper, se non ricordo male. Mi arrivava più forte con quell'antenna che stava provando, arrivava una bomba, caspita, quell'antenna lì. Sicuramente l'ha centrata in pieno. Sì, e appunto, mi sto tornando al discorso adesso. Luca, che avevo fatto l'ultima che ha fatto, era una mezz'onda. Devo dire che non c'è la differenza di segnale, il segnale era sempre quello, e per cui ripeto quello che sto dicendo. Poi bisogna anche vedere in che maniera è stata installata, perché sono antenne che hanno una particolarità un po' speciale. Devi avere quella altezza da ogni ostacolo, quella distanza da ogni ostacolo, e per cui secondo il punto dov'è magari riesce ad emanare più segnale, e chi lo sa, tante volte succede anche quello. Chi era quello che stava modulando sotto? Chi era? Luca, tu eri? No, mi sa che c'è gente in FM, l'ho sentito anch'io adesso sotto di te. Ok, sarà così, capito qua, per cui è sempre da stabilire, sono antenne da provare, riprovare, uno deve avere tanta di quella pazienza e soprattutto consumare anche un bel po' di capo per adattarla bene al 100%, poi chiaramente ci vorrebbe anche l'analizzatore di antenna per poterla fare in maniera perfetta in tutti i sensi, e quello è importantissimo, cioè non basta solamente il rosmetro. Io l'avevo fatta col rosmetro e basta, perché non ne ho di analizzatore di antenna. Sono stato fortunato che era andata bene, ha funzionato benissimo, per cui sono contento così. Oggi quel problema non ce l'ho più, perché ce l'ho quello originale. Sì, mi senti quelli in propagazione. No, addirittura non solo di eguagliare la 5 ottavi, Luca mi arrivava più forte con la mezz'onda. Infatti gli ho fatto i complimenti, caspita, una potenza, va. Sì, è riuscita veramente bene con l'antenna. Sì, perché conta anche l'angolo di propagazione, conta molto, quello lì conta molto. Se l'antenna è piazzata in un punto, la piace magari spostando anche di un solo metro, tanto per fare un esempio, non è escluso che possa rendere di più o addirittura di meno, a secondo della posizione. L'angolo di radiazione evidentemente è elevato meglio da te con quella mezz'onda che anziché con quella 5 ottavi, perché no? Anche perché quella 5 ottavi, essendo più alta, ha un'emanazione di segnale, sarà un po' più su, per cui magari tanti fattori ci sono, per cui ripeto, comunque sono tutti e due ottime antenne. Sì, questo ripeto, è senza condensatore e senza adattatore di impedenza, quindi è normale. Parte con l'EDG58 dalla bobina, poi vabbè, la calza viene interrotta e sale su solo col polo caldo, dai. E così. Poi quanto posso avere di guadagno non lo so. Però è molto semplice. Quindi poi entra bene anche dentro la canna, questa si potrebbe fare tranquillamente dentro la canna, che non c'è niente di che le bici, c'è solo uno, come si sì, c'è un po' di termoreggingente nella saldatura, ma non occupa niente, quasi mezzo millimetro, un millimetro, non di più. E basta, tutto qui. È da provare, come dici tu. Questo è partito da una misura un po' più lunga, poi è riuscito a trovare l'accordo con 2,49 di braccio, diciamo, dai. E poi 16 spire da 60 mm qui le adatte. Non so perché, però probabile che vada bene così. Sì, e beh certo, ha trovato l'accordo giusto, certamente sì, perché non essendoci impedenza, non essendoci condensatore, però come l'ha fatta? Sempre con il cavo coassiale a metà, poi il resto filo oppure tutto cavo coassiale, cosa era? No, fino a metà è arrivato col cavo coassiale, poi ha tagliato, ha lasciato solo il polo caldo dove ha saldato il cavetto in rame, diciamo, cavo elettrico, credo che fosse da 1,5 o 2 mm, non di più, per la parte, diciamo, terminale dell'antenna. E poi il resto è tutto RG58 bobina fino a metà, poi dell'antenna, là. Sì, evidentemente ha fatto così, praticamente ha fatto semplicemente un dipolo in verticale, ha costruito e va bene così, ha accordato, è riuscito ad accordare e non c'è problema, avendo la bobina è quello che importa, molto, molto importante quello, la bobina che c'è alla base, quello è importantissimo, sia per il ritorno dell'RF, per le interferenze, eccetera, cosa importantissima. Magari bisognerà anche, collaborare, provare con più spire o con meno spire, bisogna vedere. Poi non è detto che quell'antenna che lui ha fatto, che lui sta usando, adesso che magari la mette in un'altra casa, in un altro posto, magari ha bisogno di nuovo di essere accordata. E tante cose sono, ci sono tanti fattori strani nell'antenna o fra. Sì, lui l'ha provata su un palo, non molto alto da terra, quindi qualche metro da terra. Staccato dalla casa, dai. Però niente di che, una posizione un po', diciamo, anomala, dai, se vogliamo dire, non era una posizione ideale, era in terra praticamente, in un piedistallo, sicuramente sul tetto adesso renderà ancora meglio. Beh, così dovrebbe essere, perlomeno sul tetto dovrebbe funzionare ancora meglio, certamente sì. Si tratta di provare, si possono fare tanti tipi di antenna, tanti sistemi di costruzione, però solo, ripeto, come ho detto poc'anzi, ci vuole una pazienza enorme, uno soprattutto se ha la comodità magari di un terrazzo, tanto meglio, perché deve stare salendo, scendendo, provando, accorciando, allungando, insomma ci sono mille prove da fare, deve fare un bel po' di lavoro. Ci vuole, ripeto, tanta pazienza, passione e soprattutto consumo di materiale a livello di cavo. E anzi, bene o male, qua abbiamo delle misure di partenza, quindi già sicuramente siamo vicini all'accordo, quindi possiamo già sicuramente avere una buona partenza. Infatti lui è partito un po' più di lunghezza e ha trovato questo compromesso, quindi... Poi senza connettato, senza altro, quindi sicuramente è ancora più semplice da fare. Cioè, il cavo di salita, quello lo puoi piegare, lo fai un po' più lungo, lo pieghi. E così poi la bobina la puoi sempre spostare in alto o in basso, accorciando o allungando. E poi le spine lo stesso lo puoi sempre modificare. Quando trovi il punto giusto poi tagli. Sì, perché una volta che lo pieghi risulta quella la misura, certo. In effetti è così. Cosa vuoi dire? Sicuramente è fattibile, ripeto, in mille modi. Un'antenna è fattibile in mille modi. Per cui bisogna sempre, ripeto, provare. Però l'ideale sarebbe avere l'analizzatore antenna. Con quello, guarda, uno va sul sicuro, partendo magari con le misure già di base, e per poi arrivarci molto ma molto più in fretta all'accordo finale, quello che ci vuole, basta, tutto lì. Vabbè. tra riprovare, tra cosa volete dire? Sì, anche la mia, come la tua, alla prima è uscita bene. Ed è anche abbastanza centrata, allora, certo non è perfetta, però è abbastanza centrata. Ho misurato anche, come si dice, la resistenza, queste cose qua, dai. E lavora più o meno, siamo attorno ai 50 ohm. Sì, beh certo, questo sì, lo so, però ripeto, va bene, io l'avevo fatta perché ne avevo ricavato le misure dall'originale e magari mi è andata bene al primo colpo per quello lì, per quel motivo lì. Poi chiaramente era anche da vedere con lo strumento giusto da regolare, però io l'ho utilizzata per almeno 2 anni e mezzo e non ho avuto nessun problema né di stazionaria e tantomeno di trasmissione o collegamenti vari, per cui è andata molto bene. Ripeto, io avevo copiato le misure dall'originale, avevo copiato e dunque avevo fatto quello. Poi ho fatto questo cambio, ho fatto per cui adesso ho quella originale e va bene così, quella non gli deve fare niente. Conta che l'originale usa anche cavi diversi, quindi sicuramente qualcosa di in più la potresti ottenere dalla tua, sicuramente. Certo che sì, perché il cavo che usa è il 303, quello rosso, e dovrebbe avere una velocità di trasmissione intorno ai 70, 0,70, per cui io avevo usato l'H155, avevo usato che era 0,81, anch'io ero convinto che era 0,66, perché non sapevo qual era esattamente la velocità di trasmissione, e avevo fatto quel calcolo famoso, matematico, proprio sul cavo 0,66, magari facendolo ancora sul 0,81 avrei avuto delle prestazioni probabilmente anche superiori. Sì, sicuramente, perché le misure sarebbero state diverse, quindi anch'io invece ho fatto il contrario, ho fatto le stesse misure dell'RG58 usando invece il cavo l'H155, che è quella che ho usato ad Alghero attaccata all'albero, dai. E si vede che non rende bene, si vede. Bisogna provare un'altra soluzione, dai. Appunto, per cui vedi bene, io ripeto, l'avevo fatto pensando che la velocità di trasmissione fosse uguale a quella originale, invece in realtà quella originale è 0,70, perlomeno avevo letto da qualche parte che il 303, il cavo 303, quello rosso, è 0,70 di velocità di trasmissione, ma comunque è andata bene, insomma, ecco, non sarà stata perfetta al 100%, ma devo essere sincero, io non ho trovato nessuna differenza fra questa originale e quella che avevo autocostruito io allora, a quel tempo. Ma questa arriva che è una bomba, C'è la propagazione? Ogni tanto c'è. Vediamo se Luca è rientrato. Luca? Non ho gente in FM. Luca magari è già andato a fare la passeggiata che avevo preannunciato. Sì, è così, ripeto, io non ho fatto nessun tentativo, avevo quelle misure avevo fatto e mi è andata bene. Al primo colpo avevo messo il rosmetro e le stazionarie erano ok tutte, sia dalla 25 fino al 30, e andava benissimo così, e così non lasciavo, tanto più ce l'avevo nel terrazzino e potevo fare anche diverse prove, ma mi si è considerato che non avevo stazionarie e andava bene, e l'ho lasciata così e così l'ho usata per tanto tempo. Tu l'avevi messa anche all'interno della canna, vero? Sì, io l'avevo tirato dentro, sì, e avevo usato la canna da 7 metri, però avevo eliminato la parte finale della canna, l'avevo eliminata perché era troppo sottile, il cavo non passava, il cavo elettrico non passava. E allora ho utilizzato, alla base ho utilizzato un pezzo di cavo di quello PVC, quello da scarico di lavandini, quello grigio, e andava benissimo, e intanto era molto più rigido di quanto era la canna stessa, E devo dire che è andata bene, con tutto il vento che ha preso, qui in alto sembra così, anche se la casa non è molto alta, però è tutto aperto, perché le case sono tutte alla stessa altezza qui in questa zona, per cui il vento ce n'è molto, molto, molto, quando soffia, soffia veramente forte. Come stavo cercando quel tubo l'altro giorno, l'ho provato da Brickoman, non ne ho trovato, c'era quello arancione, ma addirittura mi è sembrato anche più sottile, come è scritto là. Quanto è rimasto forte questo? Sì, no, è bello, lo puoi comprare da coso, da The Market, lo puoi comprare nel negozio di edilizia, lì già ce l'hanno, quello grigio, per cui non è un problema, va benissimo così. Apparentemente sembra che abbiano ridotto un po' lo spessore, che non è più robusto come quello vecchio che avevo prima qua. L'altro giorno mi si è bloccato, diciamo, la parte in legno che avevo messo all'interno, si è gonfiata sicuramente con l'umidità. E ora togliendo si è staccato il tubo invece. Ma comunque nei negozi, se non c'è da me, come già ci sono nei negozi, ad esempio la R oppure la De Martis, e questi posti così, questi negozi dove vendono edilizia, roba edilizia, già si trova quel tubo grigio. Quello è resistentissimo, anche come spessore, mi sembra che sia roba di 5 mm di spessore, oltre al diametro che è di 40 mm, no, il tubo. E poi lo spessore del materiale è roba di 5 mm, una cosa del genere. È rigidissimo, molto rigido. Ah no, questo è perché c'è la prima qua, che adesso mi si è rotto, cioè l'ho spaccato io per togliere il legno dall'interno, ma era talmente gonfio che è diventato tutto un pezzo. Provato a battere con un perno metallico e invece si è staccato tutto, da pazienza, ma come ci tu già lo troverò uno del ricambio. Beh, certo che sì, poi io avevo anche riportato con un tubo di quelli da elettricisti all'interno, perché quando ha 32 mm dentro quello da 40 si passa benissimo, giusto giusto si passa dentro, e dunque avevo un ulteriore rinforzo, il tubo idraulico aveva un ulteriore rinforzo anche da questo tubo da 32 da elettricisti, quello rigido, che avevo un rinforzo non indifferente, quello che ho sempre utilizzato, perché anche la canna che avevo comprato io era corta, era solamente a 7 metri, che poi gli ho eliminato il pezzo di su e dunque si è accorciata ancora, e allora ho usato quel tubo grigio. Sì. Beh, vedremo la prossima settimana, dovrei avere un po' di tempo, è che a Olbia ogni tanto mi stanno ritardando tutto l'impianto di acqua, hanno provato nuovamente acqua dentro il serbatoio, è già la seconda volta nel giro di 3-4 mesi che la macchina sta andando male, mi va a colpi, a trattoni, hanno tolto il filtro e la pieno d'acqua. Adesso di nuovo ho smontato il serbatoio, fatto il lavaggio e tutto quanto, tanto io sto sempre pagando. E quello è il problema dei fornitori, che hanno l'acqua loro. Nel serbatoio sotto, nel fondo, c'è l'acqua, non so se tu questo lo sapevi, anche se è sotterrato il serbatoio, sottoterra, però c'è una certa quantità di acqua, e poi quando arriva l'autobotte per mettere la benzina rimane sopra, però loro sanno che fino a quel livello non devono arrivare, perché se no aspira anche acqua e allora l'automobilista avrà quei problemi. Infatti, addirittura è entrata anche un Audi in assistenza, questa ha messo benzina, praticamente ha fatto il pieno, loro hanno svuotato il serbatoio, dice che c'erano sia no 10 litri di benzina, il resto tutto acqua, cioè tutto acqua mi ha detto, è una cosa impressionante. Non so, eppure io ci sto attento, cioè ci vedo l'autobotte, non vi fornisco, vado a cercare tipo le 10 di notte quando rientro sulla campagna, che sono sicuro che è cantata la cosa. Eppure guarda, è già la seconda volta che mi sta andando male. Non vorrei che facesse danno alla pompa, perché poi quest'acqua fa danni enormi ai iniettori, insomma tutto il sistema di iniezione. Oppure questa macchine di oggi sono tutte sofisticate, se non è perfetta la cosa va subito in protezione. Eh sì, bisogna stare attenti, bisogna anche, secondo dove è fatto il rifornimento, dove si vive al gestore, guarda che è successo così, ho fatto il rifornimento qua e sono dovuto andare dal meccanico perché c'era l'acqua dentro insieme alla benzina. Sono questi gestori così che sono malefredisti, capisci come è il discorso, che loro magari aspettano fin quando il livello della benzina è bassissimo e praticamente arriva all'acqua, perché l'acqua c'è nel serbatoio per protezione, per il caso di scoppio eccetera, sono diventa una bomba. E allora nel fondo del serbatoio c'è dell'acqua, io so che è così, a me me l'aveva detto proprio un benzinaio che era così. Però se uno lascia consumare tutta la benzina, alla fin fine quando tu vai a far rifornire prendi acqua anche, e questo è il problema. Ma non mai oggi con tutti i sistemi che ci sono di elettronica, una pompa dovrebbe andare in blocco, non deve buttare acqua dentro i serbatoi delle macchine. Non lo so, siamo un po' maltrattati da questi. Questi serbatoi fanno anche condensa all'interno, quindi l'acqua aumenta sempre. E poi questi gasoli nuovi, il gasolio nuovo, di nuova diciamo generazione, hanno mi sembra un 20% di gasolio bio. È proprio lì dice che sta l'inghippo, è proprio in quella parte di biologico di gasolio bio che c'è una parte enorme di acqua. E appunto, il problema è proprio quello. Per cui bisogna, vabbè, tu mi dirai, ma come faccio a sapere? Io mi fermo al rifornitore, io cosa ne so se quel rifornitore è gestito bene o se è gestito male. Purtroppo è così. Ma a me, devo dire, non mi ricordo che mi sia capitato un fatto del genere. Forse un po' di anni fa, ma pensare a una ventina di anni fa, 20, 25 anni fa, se qualche pochino, qualche goccia di acqua c'era, perché così già ne ho perso, però poi l'ho portato al meccanico e mi aveva sistemato il tutto, aveva pulito un po' il carburatore di allora, oggi è tutta diversa la macchina come stai dicendo tu, per cui oggi è ancora più dispendioso, quando succede un fatto del genere costa di più anche a fare la riparazione. Sì, oggi sono colpi ogni volta 500-600 euro, ma tra lavaggi e tutto, il montaggio, serbatoi, pulizia, circuiti e cose varie, il gasolio che usano per fare tutti i lavaggi, manodopera e cose varie, e tanto noi paghiamo. Però io so che loro sono assicurati, dovessi fare una denuncia magari, scusa il telefono. Natali, tu sì, avanti, Natalino, tu sì, avanti il fischio. Eccomi, ci sei giù? Sì, sono qua. Stavo dicendo, adesso che mi è venuto in mente, tempo fa, io parlo di diversi anni fa però, avevamo fatto un'antenna anche, così a titolo di prova, con un toroide, e cioè un toroide è un trasformatore, praticamente ci va una bobina attorno a questo toroide, un anello magnetico praticamente, no? Facendo questo avvolgimento attorno si abbassa l'impedenza, perché se no sarebbe un'impedenza altissima quella del cavo, e l'avevo fatta direttamente col filo, tutto filo, senza coassiale, niente, solo con un filo elettrico e con questa bobina autoruide. E il valore come l'hai trovato? Come l'ho trovato? Come sarebbe come l'ho trovato? Per sapere quante spire fare sul toroide? Ah sì, e beh, sì, ce l'ho ancora quel toroide fatto, ce ne ho tre addirittura. Uno però l'avevo fatto, è un trasformatore di impedenza, praticamente un simmetrizzatore, dunque va benissimo, che serve proprio per abbassare l'impedenza del cavo elettrico, perché l'impedenza del cavo elettrico è roba di 300 ohm o una cosa del genere, mentre a noi serve 52 ohm, più o meno, dai. siamo lì, poi se ne sono 60 o 70 vanno bene lo stesso, però poi dipende da come d'accordo. E questa settimana un avvolgimento che avevo fatto con un filo RCA, quello da amplificatori, eccetera, uno rosso e nero, che è importante farlo così. E avevo fatto questa bobina, adesso non mi ricordo quante sfide avevo fatto dentro a questo coso, poi ho fatto il collegamento e andava bene lo stesso. Sì, lui mi sono fatto addirittura direttamente avvolto sul toroide il cavo coassiale. Non so quante spiri da una parte, quante spiri all'altra, e poi le due estremità, una verso l'antenna e una verso l'apparato, e funzionava bene. Poi addirittura uno l'ha fatto in verticale, cioè invece di essere la forma toroidale, l'ha fatto in verticale, quindi era tutta la bobina, era avvolta in verticale, e l'ha inserita dentro la canna da pesca, ha dato l'impedenza, hai capito, Giù? Sì, è uguale, ha lo stesso valore, lo stesso effetto. Basta uno di quei bastoncini di antenna di transistor o di radioline a batteria, che c'è questo bastoncino ferro cubo si chiama, dai. E si può fare anche a volto alto da quello, anche quello è magnetico. Per cui va bene lo stesso, ha la stessa funzione del toroide, non cambia niente agli effetti di quello. Si può fare questo trasformatore, io ho fatto un trasformatore 4:1, rapporto 4:1, che si può fare anche 9:1, si può fare, però quello per altre frequenze, io avevo fatto il rapporto 4:1 e andava bene. Va benissimo, perché si abbassa l'impedenza del cavo, filo elettrico solamente avevo usato. Se invece usi cavo coassiale, allora il discorso è anche diverso, anzi dovrebbe andare anche meglio, però si sa, le prove bisogna farle sempre. Sì, cosa significa 4:1 Giù? Che è un rapporto di onde stazionale 4:1 il trasformatore. Il trasformatore non è altro che un adattatore di impedenza che riesce ad adattare i vari cavi all'impedenza dovuta, che deve essere quella che deve utilizzare. No, ma questo rapporto 4:1 oppure 9:1, cosa, che valore cambia? Non so come spiegarlo, 9 volte o 4 volte? Sì, a secondo della frequenza che devi utilizzare. Ad esempio, se devi farlo per le frequenze radioamatoriali, è importante farlo 9:1. Allora, anziché essere con due fili, va fatto con tre fili e va fatto questa bobina. Mentre invece, facendolo così per la banda che usiamo noi, va bene solamente con due fili, cioè un filo bipolare, va bene. Oppure addirittura un filo smaltato. Però naturalmente dovrei fare il doppio avvolgimento in modo che diventino sempre due. Ma l'ideale è un filo elettrico, quello delle RCA, non so, è nero, no, quello per altoparlanti, eccetera, quello va benissimo, non c'è problema. Capito? Naturalmente il numero delle file, adesso non me le ricordo come erano, ma se ricordo bene erano 15, 16 attorno a questo toroide, e poi il collegamento naturalmente bisognava farlo in maniera esatta, precisa, no? L'hai fatto dentro una scatola o volante? No, poi l'ho messo dentro una scatola, io l'avevo messo dentro una scatola, attaccata alla scatola avevo messo il PL2239 in modo da avvitarsi, poi il PL normale, che andava benissimo così. O perlomeno ci puoi mettere due mossetti, ci puoi mettere tipo quelli che ha l'alimentatore dietro, no? L'alimentatore non ha i mossetti, uno rosso e uno nero, e tu avvolgi il cavo lì e se non usi gli spinotti, avvolgi il cavo, stringi, e va bene lo stesso. Uno è per la massa e uno è per l'antenna. Sì, sì, ho capito. Ma come dici tu, il PL è forse più comodo, vai, fare saldatura, parte indietro, sigilli tutto e via. Sì, beh, non cambia niente, diciamo che col PL è più pratico, perché al limite l'antenna la puoi sostituire con tante altre antenne di varie lunghezze, cosa che fai sempre, è lo stesso discorso, metti piede, avviti e stai andando. È la stessa cosa, mentre dal capo di discesa può essere direttamente saldato da dentro e scende lo stesso così, oppure anche lì puoi mettere anche lì un altro PL e avviti anche lì, è uguale. Certo, certo. Eh sì, tempo ci vuole, la passione già non ci manca. Eh beh, certo, sì. Comunque in resto si trovano tanti schemi, si trovano tanti schemi in rete che puoi tranquillamente costruire. Io l'avevo trovato in rete, l'avevo trovato anche il numero di spine che dovevo mettere dentro il colore, eccetera eccetera, per cui l'avevo realizzato e devo dire che andava bene. Quello serve soprattutto per la radiofrequenza, no? In modo che non ci fossero ritorni di radiofrequenza, perché in pratica al posto del choke, che poi può fare anche il choke, è ulteriore, oltre alla bobina, questo trasformatore, questo simmetrizzatore, puoi fare poi dal cavo 4 o 5 spine di cavo, e quello contribuisce ancora meglio a isolare per il fatto delle interferenze. Quelle, diciamo, in aria aperte, dai. Sì, subito dopo il toroide esce il cavo quasiare, tu sul cavo quasiare prendi un tubo ad esempio da 10 di diametro e ci fai 5-6 spine lì e va anche bene, e quello è importantissimo, anche per non fare interferenze ad altre apparecchiature. Sì, l'antenna è una cosa delicata, mi ha sempre appassionato. Ripeto, ci vuole tanta pazienza, tanta passione, mettersi in testa che consumi un bel po' di materiale, perché a forza di provare, si sa, taglia adesso, taglia pure, oppure forse anche che tagliare dovevo allungare, così via. L'ideale, ripeto, sarebbe avere dal realizzatore d'antenna, ma costa 300 euro, non è che uno si può comprare, vabbè, uno se vuole se lo può comprare e ha tutti i parametri che servono poi per l'antenna, ma non solo per l'antenna di questa frequenza, ma di tutte le antenne che uno vuole costruire. Io non so se te l'ho detto, ho preso quel nano VNA, l'avevi guardato su internet? Sì, l'avevo guardato, quello a fare Cinesino, sì. L'avevo guardato, anche quello funziona bene, ad esempio quell'amico ce l'ha, lo usa, però non lo so se quello lì è adatto per questa frequenza, perché quell'amico è per il VU, mi ricordo, mi sembra che mi aveva detto che era per quello. Se era per questa frequenza non lo so, ci sarà anche per questa frequenza, non lo so. Sì, questo prende tutto, addirittura ho preso quello diciamo di ultima generazione, che addirittura puoi calibrare anche le antenne che si usano adesso per i droni che stanno utilizzando frequenze particolari, arriva fino a quella frequenza lì. Ho capito, sì, certo. Beh, l'ideale comunque sarebbe avere quello grande, professionale, ma costa non meno di 250 euro, di più sì, ma di meno no. E a comprare di seconda mano non ne vale la pena, perché non si sa se funziona bene, dai. Quando è di seconda mano, perché si trova anche di seconda mano, magari se sei fortunato lo trovi in ottime condizioni, in ottimo modo di funzionamento, e va bene lo stesso, però uno per essere sicuro, se per risparmiare 50 euro, uno addirittura se lo compra nuovo direttamente non se ne parla più. Sì, sono belli quelli della, come si chiama, Regit, non mi ricordo adesso come si chiama, quelle perché poi ti dà tutto l'arco, anche questo ti segna l'arco, cioè come si dice, il grafico, puoi vederlo in vari modi, però devi saperlo anche interpretare, lo strumento devi anche conoscerlo. Va calibrato, questo si può anche calibrare, cioè i vari tappini da collegare, aperto, chiuso oppure col carico fittizio. Dopo che viene calibrato, allora lo utilizzi da. Sì, e beh certo che sì, se uno lo conosce va bene, non c'è problema, dovrebbe funzionare ugualmente bene, certo. No, con l'altro invece già è abbastanza semplice, è abbastanza, intanto è professionale, no? Primo, e poi è una cosa talmente facile da capire che non c'è problema, ti dà tutto, ti dà la frequenza. Tu prendi un pezzo di filo qualsiasi, metti in quello strumento e ti dice su quale frequenza di suono, per dire, no? un cavo qualsiasi lungo di una certa lunghezza, come piace a te, metti quello e ti dà la frequenza dove risuona. E allora da quello parti e ti fai l'antenna per quello che ti serve, dai. Quello che c'è da capire è vedi, come interpretare l'induttanza dell'antenna o l'altro, come si chiama, tutti questi valori che c'è l'antenna. Ma tira tutto, quello lì tira tutto, quello professionale così tira tutto, qualsiasi parametro che è necessario per l'antenna, tutti i parametri, stazionari e tutto, la frequenza, il guadagno, i dB, tutto ti dà, tutto indistintamente, tutto nelle varie frequenze che tu ritieni di costruire, dai, di esaminare. Però tutti quei valori che ti dà, devi interpretarli, devi sapere. Se aumentano cosa succede, se diminuiscono cosa succede. Beh, la scala è chiara, la scala è chiarissima, no? Non c'è problema. La scala è abbastanza chiara, è tutto scritto, addirittura è scritto in digitale i valori, per cui li leggi e li sai, no? Capita. Se capita qualche volta te lo faccio vedere, te lo faccio provare questo strumento, dai, un'antenna qualsiasi, un'antenna anche dei portatilini, dai. Ok, sì, beh certo, sì, no, ma magari forse una bella che quello, ma io sto parlando di quello grande, professionale, ripeto, costa intorno tra le 250 e le 300 euro, poi ce ne sono anche di più costosi, naturalmente, sempre più sofisticati, ovvio, però quello già a quel prezzo lì, guarda, è già un ottimo strumento, infatti Luca usa uno di quelli, usa che è fenomenale, è perfetto, infatti lui è in grado di costruire qualsiasi antenna per qualsiasi frequenza, anche per i cellulari, per il PMR, per tutto, anche per questi portatilini da niente, così lui è in grado di fare perché ha questo strumento che riesce ad analizzare tutto. Io le ho provate le antenne che ho del portatilino, non sono un granché come centratura, sì, vanno più o meno bene in tutte e due le frequenze, sia il GNU che il V, però non sono il massimo, dai. Lo so, è purtroppo così, perché quello ti dà anche l'espansione della banda, ti dà tutto, ripeto, il quadro è completo, ripeto, è professionale, per cui guai se non fosse così. Poi ti fa la curva e ti dice in quale frequenza diciamo è centrata, dai. Addirittura se usi in base, poi tu gli puoi dare la forbice di frequenza, non so, voglio che questa antenna la voglio controllare dai 25 ai 30 MHz e ti fa un arco e ti dice dove il punto migliore dove risuona l'antenna. Se non va bene devi o accorciare o allungare in base a dove risuona, dai. Sì, beh certo, sì, infatti è così, si dà lo schema per vedere i parametri dove riesce ad arrivare lo spettro del segnale, eccetera, si dà tutto veramente, e lo so, però ripeto, uno non è che può spendere, almeno per me non mi serve, poi se uno ha la passione e se lo vuole comprare, va bene lo stesso, ci mancherebbe altro, però a me personalmente non mi serve, non saprei cosa farmene, cioè per costruire un'antenna per questa frequenza me la posso fare anche così com'è, a parte il fatto che adesso non mi serve, anzi tra l'altro ne avevo fatto un'altra io ce l'ho un'altra costruita, che poi tra l'altro non l'ho mai installata, perché non ho la possibilità, dove togliere quella che c'è adesso per poter mettere quella che ho autocostruito e provarla, però l'avevo provata così appoggiata e andava bene, mi dava 1,13 stazionari, mi dava, ma ripeto, era appoggiata e dunque era sarare, bisognava vedere e installata sul tubo, ecco, insomma. Sempre stile Game Master? Sì, sempre così, con la stacca 155, sempre così, uguale. Anzi, addirittura il capo finale, cioè il filo elettrico, l'avevo lasciato un bel po' più lungo, proprio per fare la cordatura, ma ripeto, non l'avevo mai piazzata nel tubo, e dunque l'ho lasciato così com'è, e ce l'ho messa da parte e ce l'ho conservata. Ma in caso di necessità, un domani che mi si rompe per dire questa che ho adesso, la Game, al limite posso piazzarne subito un'altra, perché ce l'ho già pronta, devo solo accordarla definitivamente. Sì, ci vuole un'antenna di forza. Mi senti bene che sei parlato lontano? Cosa hai detto, Fra? C'era la sovrapposizione del coso che ha dato un po' di fastidio dalla preparazione. No, ho detto, se parlo da lontano, mi senti bene? Sì, ti sento benissimo, non c'è problema. Va benissimo. Alle volte, vabbè, c'è preparazione, è chiaro che... Ma quella è un'altra cosa, non c'è da niente con la tua preparazione, la tua è perfetta. Adesso ho aumentato un po', Infatti adesso hai aumentato il segnale, certo. Ma va bene, andava bene anche prima, non c'è problema, ci sentivo ugualmente, anche se arrivava la preparazione ci sentivo lo stesso. Così magari li copro meglio, aspetta, mi stanno chiamando. Ok, ti stanno chiamando, va bene. Sì, un attimino, Ok. Eccomi. Ok. Ti ha visto, fatto per cui si sa, la strumentazione professionale è tutta un'altra cosa, è molto più affidabile. Magari funziona bene anche quello che hai tu funziona bene lo stesso, però bisogna conoscerla bene, sai, con questo fatto delle apparecchiature cinesine è un pochino alle volte complicata la situazione. E infatti bisogna imparare a conoscerlo come apparecchiatura, cioè ci vuole anche uno che ti spieghi le varie funzioni che ha, perché visto così, cioè da autodidatta sì, puoi vedere i valori dell'impedenza, i valori delle stazionarie, ma quello te lo fa tranquillamente, però magari confrontarlo con un altro strumento per vedere se è abbastanza fedele. Anche quello sarebbe bello confrontare, anche certo, tanto per sapere, per capire, per poter vedere che cosa uno può fare con quel tipo di strumento lì, certo. Ma probabilmente, ripeto, funziona lo stesso, perlomeno stando quello che mi ha detto Luca, quel tipo che ha Luca, funzionano molto bene, vanno benissimo, anche sta andando bene anche quello, lui li conosce evidentemente e lo usa. Ho visto, sì, l'hanno testato anche questi, qualche radioamatore, ho visto che già, e dicono che è abbastanza preciso, dai, dopo la calibratura, dai. Sì, beh certo che sì, anch'io avevo visto qualcuno, qualche radioamatore, qualche video su YouTube già l'avevo visto, e ho visto che lo usava egregiamente, lo sapeva e diceva che era abbastanza perfetto, certo. L'avevo visto anch'io qualche video. Ci vuole occhiali buoni, vista buona ci vuole, perché è molto in piccolo la cosa. Quello sì, magari usando anche una lente di ingrandimento sarebbe anche meglio. Certo che sì, purtroppo è così, sono apparecchiature molto compatte e dunque le scritte sono molto piccole, un po' più difficoltose nel leggerle, ma comunque uno già si arrangia lo stesso. Occhiali e lente di ingrandimento e legge lo stesso. No, già con gli occhiali, già, se sono perfetti gli occhiali si vede bene, dai. Tutto lì, ma proveremo a imparare ad usarlo piano piano. Che ore sono? Fra un po' allora i pavesini. Tu come ti hai messo? Ancora non mi hanno chiamato, ma penso che non tarderà molto, sono le 8:10, per cui va bene che magari aspetto che arrivi mia figlia dalla palestra, ma siamo lì, è sempre questione di minuti. E poi come sta andando questo periodo, la frequenza? Tranquilla? Ma io avanti ieri non ho modulato, non ho sentito niente, perché da palazzo, insomma, ero un po' più al computer che al baracchino, ma come se come vedi, Catena, siamo qua noi un'oretta già, forse anche di più, e non è entrato nessuno alle fuori di Lucca. No, la gente magari se ne va in giro, se ne va a passeggiare, che ne so. Vabbè, l'importante è che ci siano rotture di scatole, intendevo quello lì, portanti, cose varie. No, sembra di no, sembra tutto a posto, per cui speriamo bene che continui così, ma la gente non ne ha voglia, dai, adesso soprattutto con le belle giornate, magari la gente preferisce fare la passeggiata anziché stare lì attaccata al baracchino. Sì, no, anche io stavo chiedendo poco, un po' perché mi sto dando presa la mattina, stiamo lavorando praticamente quasi dopo Sant'Antonio di Gallura, come si chiama la zona lì? Dove c'è la diga dell'Iscia, dai, più o meno, siamo lì. E quindi la mattina partiamo presto, mi sto dando le 5:30, 5:20. Alle 6 partiamo e rientriamo verso le 3, c'è poca voglia, dai, una doccia, sei stanco, ti riposi un po', è già ora di cena. Certo che sì, quando uno si alza presto, poi un po' di riposo lo deve recuperare, ma è nella normalità questo del fisico umano. Certamente che sì, lo so, infatti ho già bisogno presto, io mi sveglio intorno alle 5:30 la mattina, 5:30 massimo, quando è tardi mi sveglio alle 6, e poi magari metto le cuffie e ascolto o la radio oppure accendo la televisione e ascolto e seguo anche programmi televisivi da mattina presto. Ormai questo lo faccio già da un po' di tempo, ma tanto tempo, perché io non è che dormo più di 5 ore, 5-6 ore quando dormo tanto, di più non riesco a dormire, nonostante che la notte non è che mi colico molto presto, mi colico abbastanza tardi, sempre intorno alla mezzanotte, per cui, però 5-6 ore massimo e sono di nuovo sveglio. Ma è normale, è fisiologico. Più si diventa grandi, dicono, e meno si ha bisogno di dormire, il sonno diventa sempre più corto, non so perché, ma è così. Così dicono i medici, così dicono, poi la normalità sarebbe 7-8 ore di sonno, ma 7-8 ore non so a quale età si riferiscono. Io ripeto, ne sento tante persone della mia età che dormono sempre quelle ore lì, niente di più né di meno, anzi tante volte uno proprio per non svegliarsi troppo presto va a letto un po' più tardi proprio per fare una dormita più lunga, ma quando uno è abituato a quell'ora e il fisico a quell'ora si sveglia e basta, non c'è niente da fare. Ogni tanto qualcuno mi chiama qua a casa, qui devo rispondere. Quindi se faccio qualche buco è per quello, ti chiedo scusa, Giù. Ma non ti preoccupare, ci mancherebbe, caspita. Prima la famiglia è la cosa più importante, poi il baracchino deve venire sempre molto dopo la famiglia, per cui ci sono cose più importanti del baracchino, non c'è problema. No, ti fanno domande, dov'è questo, dov'è quello, domani qui, insomma, a volte si è preso 4-2 fuochi, e quindi se vai a rispondere poi ti perdi parte del discorso. Vabbè, comunque dai, come dici tu, la famiglia prima di tutto. Già lo credo, vuole vedere, prima la famiglia, già lo credo, non c'è cosa più importante della famiglia, non esiste nessuna situazione più importante della famiglia. La famiglia è sempre quella che comanda, poi uno se fa il buco al baracchino non è un problema, è comprensibile, no? È da capire questo, ci mancherebbe altro. Sì, è così. Dai, io adesso ti saluto, così inizio a preparare qualcosa. Un abbraccio da parte mia e mi auguro di sentirti al più presto, sempre in forma, in ottime condizioni. Ok, Giulio? Ok, anch'io ti saluto, un abbraccio anche da parte mia, dai, ci sentiamo, grazie per la chiacchierata, è sempre un piacere, dunque per me va bene se vuoi così. Questa sera sono soddisfatto per quanto riguarda la frequenza, la modulata, insomma, diciamo. Ciao, alle prossime, ciao, grazie ancora, ciao. Grazie a te, ciao Giulio, buona cena, buon tutto.